GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Sciopero nella scuola, alta adesione alla protesta nazionale, a Udine manifestazione della CGIL e anche i pensionati contro la manovra del governo. Il setaccio della polizia nella movida dei giovanissimi, controllate in tutta Italia migliaia di persone, in regione interessate 3 province. Processo dell'Acqua Santiera verso la sentenza per la morte a Udine di una bambina di 7 anni, la requisitoria della pubblica accusa. Transizione digitale, ritardi nelle aziende regionali, quasi la metà non ha ancora investito nello sviluppo tecnologico. 7 pensionati ogni 10 occupati è la media, secondo i dati dell'INPS rielaborati dall'IRES. L'assegno medio più alto è a Trieste, ma 1 su 5 non supera i 1000 euro. Gli eventi meteo estremi nel quadro dell'ambiente regionale che cambia, presentato il rapporto 2024 dell'ARPA, alla presenza di Luca Mercalli. Ponte festivo con il bel tempo e temperature oltre la media, solo domenica un calo. Udinese è una sconfitta che brucia, cronaca e recriminazioni dopo il 3-2 inflitto ai friulani dal Venezia. Le 12.31, ancora buona giornata da Giampaolo Mauro e Lara Zani. In apertura la giornata di proteste e appuntamenti sindacali, a cominciare dallo sciopero nella scuola, indetto in concomitanza da CGIL e USB, sciopero che ha fatto registrare numerose adesioni. A Udine una manifestazione con i pensionati e un presidio della UIL a sostegno dell'avvertenza dei lavoratori precari delle poste. Sentiamo. Le bandiere rosse della CGIL hanno affollato Piazza Venerio in centro, a Udine. Pensionati e lavoratori della scuola mobilitati contro le scelte della finanziaria nazionale. Il termine all'udinese della protesta, con ripercussioni sul mondo della scuola in tutti i capoluoghi del Friuli Venezia Giulia, ha supportato la trattativa sul rinnovo del contratto nazionale e la difesa del potere d'acquisto delle pensioni. Renato Bressan, il segretario regionale dei pensionati CGIL. Siamo di fronte a una legge di bilancio che ancora una volta penalizza le pensioni, basta sapere i 3 euro di aumento delle pensioni minime che sono per davvero un pacchetto di caramelle, dopodiché ci troviamo di fronte al definanziamento ancora una volta della sanità e un taglio agli enti locali che è di 4 miliardi nei prossimi anni, che vuol dire aumento delle tasse locali e taglio della spesa sociale. Ce n'è abbastanza per essere in piazza assieme con la scuola. I pensionati non sono insensibili per i nostri ragazzi che se ne stanno andando a migliaia da questo paese perché sottopagati e precari. In mattinata, sempre a Udine, davanti al centro operativo postale di Viale Europa Unita, mobilitata anche la UIL Poste contro il dilagare del lavoro precario. Lavoratori umiliati e sfruttati, si legge tra le rivendicazioni, che lavorano spesso in condizioni precarie di sicurezza per essere performati. Ugo Spadaro è il segretario regionale del sindacato. Chiediamo che vengano trasformati i contratti da part-time in full-time, perché questi sono lavoratori fantasma. L'unica soluzione che risolverebbe il problema è la trasformazione del contratto, come previsto dall'accordo nazionale sulle politiche attive del lavoro. Udine, Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. Atti di bullismo, percosse, lesioni, risse, danneggiamenti, estorsioni, furti, rapine, spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope, detenzione illegale di armi e strumenti atti a offendere. Sono queste le condotte anche pubblicizzate nel web dagli stessi autori, di cui si sono resi responsabili i giovani finiti al centro delle indagini condotte dal Servizio Centrale Operativo della Polizia, che si sono concluse oggi con un maxi blitz condotto in 30 province, fra le quali Trieste, Udine e Gorizia. Controllate soprattutto in aree di spaccio e della cosiddetta movida 8.657 persone, di cui 2.514 minorenni, oltre a 2.172 veicoli, 67 immobili e diversi luoghi di aggregazione, come piazze, giardini pubblici, aree limitrofe alle stazioni ferroviarie, centri commerciali, ristoranti, bar, sale slot e scommesse. A seguito delle verifiche sono state elevate 161 sanzioni amministrative di diversa natura, in particolare per uso di sostanze stupefacenti e somministrazione di bevande alcoliche a minori. La cronaca giudiziaria, si arriverà a sentenza forse già oggi per il processo in primo grado sul caso di Penelope Cossaro, la bambina di 7 anni morta a Udine il 21 novembre del 2019, travolta da un'acquasantiera nella chiesa di Santa Chiara in gestione all'educandato statale Collegio Uccellis. Gli imputati sono 2, il primo è padre Ioan Margine Ancocis, il prelato che nel pomeriggio di quel giorno stava tenendo tra le 16 e le 17 una lezione di catechismo ad alcuni bambini della scuola primaria, tra cui la piccola Penelope. La seconda è la dirigente scolastica dell'Uccelli, Sanna Maria Zilli. L'udienza si è aperta con la requisitoria del pubblico ministero, la sostituta procuratrice Lucia Terzariol. Da parte sua sono state esposte le lacune sulla gestione della chiave e degli accessi alla chiesa, gestione lasciata alla prassi e non a regole chiare e scritte. Altro punto sottolineato dalla PM, l'iniziativa di padre Johan, definita estemporanea, di portare i bambini in chiesa, che non era il luogo deputato al catechismo. La dinamica dell'incidente è stata ricostruita tramite la ricostruzione dei bambini. Hanno visto Penelope allontanarsi dal gruppo e aggrapparsi alla acquasantiera, che non ha retto al suo peso ed è caduta a terra, finendo appunto sopra la bambina. Secondo il consulente della procura, l'ingegnere Franco Curtarello, non ha tenuto la malta che ancorava il manufatto del XVII secolo. Dopo il PM toccherà alle difese. Una persona è rimasta ferita questa mattina in seguito a un incidente stradale che ha coinvolto un'auto e un mezzo agricolo. L'incidente si è verificato a Tavagnaco, in via San Bernardo, all'altezza dell'incrocio con via Bariglaria. Secondo una prima ricostruzione, l'auto avrebbe tamponato il trattore. Il ferito è stato condotto in ambulanza all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. È ancora lungo il percorso sulla via della transizione digitale. Quasi la metà delle nostre aziende è rimasta ferma in attesa di un momento più favorevole per investire nel rinnovamento. Ma intanto il mondo corre, lo spiega un'indagine della Camera di Commercio Pordenone Udine. Transizione 5.0, c'è ancora parecchia strada da fare. Le aziende friulane sono in larga parte poco consapevoli e poco propense a investire. Tuttavia c'è fiducia sugli effetti positivi che la transizione digitale potrà avere sull'economia. Il quadro emerge dall'indagine della Camera di Commercio Pordenone Udine svolta ad ottobre su 200 imprese con l'obiettivo, spiega il presidente Giovanni Da Pozzo, di realizzare formazione e supporto agli imprenditori su questa sfida fondamentale. Il 44,5% delle imprese rispondenti non ha implementato alcuna tecnologia connessa alla transizione 5.0. Un terzo ha adottato sistemi di gestione dei dati, l'11% lavora già con l'intelligenza artificiale, il 9% con tecnologie legate all'Internet of Things, il 7% con l'automazione industriale, il 5% ha introdotto la realtà aumentata e virtuale, l'1,5% la robotica collaborativa. Tra le difficoltà segnalate, costi elevati, competenze interne limitate, problematiche di sicurezza e privacy, mancanza di infrastrutture e resistenza al cambiamento. In merito all'intelligenza artificiale, 6 aziende intervistate su 10 non prevedono di utilizzarla in futuro. Il 25% sta invece esplorando questa possibilità. Un terzo pensa che potrebbe offrire benefici in diversi settori. Negli ultimi 3 anni, quasi 8 imprese su 10 non hanno effettuato investimenti in transizione 5.0. Tra chi lo ha fatto, il 15% ha investito meno di 10.000 euro, solo l'1% tra i 50 e i 200.000. E per il futuro, il 70% delle aziende rispondenti non prevede investimenti in transizione 5.0 nei prossimi 3 anni. Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. 7 pensionati ogni 10 occupati è il rapporto in Friuli Venezia Giulia, dove gli assegni erogati ogni mese sono oltre 500.000. I dati dell'INPS sono stati rielaborati dall'IRES. Sono 508.000 le pensioni erogate in regione, ma alcune sono cumulabili, quindi i pensionati sono 356.000, un numero che soltanto nell'ultimo biennio, con le deroghe alle leggi Fornero, è lievemente aumentato dopo un decennio di contrazione dovuto in particolare all'innalzamento dell'età pensionabile. La maggioranza dei 356.000 pensionati, cioè 230.000, hanno superato i 70 anni, 123.000 sono invece più giovani. Per ogni 10 occupati ci sono 7 pensionati, secondo i dati Istat elaborati dall'IRES. Alessandro Russo, ricercatore dell'IRES FVG. Nell'ultimo biennio il numero di pensionati in Friuli Venezia Giulia è lievemente aumentato, dopo una fase di consistente diminuzione dovuta alle modifiche normative che hanno progressivamente innalzato l'età del pensionamento. In regione ci sono quasi 70 pensionati ogni 100 occupati, un rapporto che, alla luce delle attuali proiezioni demografiche, nei prossimi decenni metterà in serie difficoltà la tenuta del sistema previdenziale. I pensionati triestini, stando all'IRES, sono i secondi più benestanti in Italia. L'importo medio annuale lordo raggiunge i 23.380 euro, cioè 2.000 euro in più della media nazionale. Tuttavia un pensionato su 5 in regione non raggiunge i 1.000 euro mensili e il divario di genere è pesante. Le pensionate percepiscono mediamente 8.000 euro all'anno in meno degli uomini. Trieste, Nada Cioc, TGR, Friuli Venezia Giulia. È stata depositata in Consiglio regionale la petizione per l'istituzione di un parco comunale o di un biotopo nella zona naturalistica di Punta Olmi e del bosco dell'Arciduca a Muggia. Il comitato Proteggiamo Punta Olmi, nato per preservare e valorizzare la zona, ha incontrato il presidente dell'assemblea Mauro Bordin per chiedere, attraverso la sottoscrizione da parte dei cittadini, di istituire appunto un regime di protezione. Sarà la quarta commissione, ha spiegato Bordin, ad approfondire la questione a partire dai progetti immobiliari che riguardano la zona. La petizione ha raggiunto le 3.000 sottoscrizioni. Questo luogo, affermano i portavoce del comitato, è il solo esempio in Italia di paesaggio collinare costiero istriano rimasto intatto. Muggia ha un consumo di suolo superiore rispetto alla media regionale. Chiediamo che la regione faccia la sua parte. A sostegno della petizione si sono già pronunciati diversi consiglieri di Patto, PD, Slovenska Skupnost, 5 Stelle, Open e AVS. I temi dell'ambiente, le immagini arrivate nelle ultime ore da Valencia, travolta da precipitazioni senza precedenti, ripropongono la questione della crisi climatica. I riflessi si riscontrano anche nel rapporto presentato questa mattina a Trieste dall'Agenzia per la Protezione Ambientale. Un clima sempre più mediterraneo, caratterizzato da meno precipitazioni in estate e più in autunno e temperature medie in progressiva crescita. Un'atmosfera più pulita, anche se il tasso di miglioramento della qualità dell'aria si è ridotto. Fiumi e laghi abbastanza in salute, ma con qualche criticità legata ai prelievi idrici e alle pressioni del settore agricolo. Un mare generalmente buono, con maggiori difficoltà in laguna e alle foci dei fiumi. Un consumo di suolo ancora troppo elevato. È questo il quadro clinico del territorio del Friuli Venezia Giulia, così come emerge dal rapporto 2024 sullo stato dell'ambiente in regione, realizzato dall'ARPA e presentato a Trieste alla presenza del climatologo e divulgatore scientifico Luca Mercalli. Ci sono delle cose che vanno meglio e delle cose che vanno peggio. Per esempio, il cambiamento climatico purtroppo va peggio, perché va peggio in tutto il mondo e Friuli Venezia Giulia non è certo un'eccezione. Si sono abbandonati quegli inquinanti storici delle zone europee, come era il carbone, come era un certo tipo di gasolio, e quindi abbiamo migliorato la qualità dell'aria che respiriamo. Poi ci sono altri indicatori che non stanno bene, per esempio il consumo di suolo è un problema, continuiamo a cementificare troppo, invece la qualità delle acque è direi stabile, in un livello elevato. Un panorama dunque in chiaroscuro, con indicatori confortanti e altri da tenere sotto stretta sorveglianza per migliorare ancora, in un quadro globale caratterizzato comunque dalla crisi del clima dovuta all'aumento dei gas fossili in atmosfera. Anna Luttmann, direttrice generale ARPA Friuli Venezia Giulia. I cambiamenti climatici sono un problema quotidiano, l'abbiamo visto anche con quello che sta succedendo, quindi sicuramente i gas climalteranti, la qualità dell'aria, e bisogna lavorare ancora ovviamente sulla qualità delle acque. Trieste, Daniele Letti, TGR, Friuli Venezia Giulia. Uno sguardo al meteo, abbiamo cielo sereno sul Friuli Venezia Giulia, temperature delle 11, a Trieste 20 gradi e 5 decimi, a Gorizia 22, a Udine 21, a Pordenone 20 e 5 decimi. Nell'area montana abbiamo a Tolmezzo 16 gradi e 5, a Tarvisio 13, a Sappada 10 e 5, sul Piancavallo 14, a Forni di Sopra 16 gradi e mezzo. E ancora in quota abbiamo sullo Zoncolan 12 gradi, sull'Ussari 10 gradi e 5 decimi. Sulla costa grado 19, a Lignano 18 e mezzo. Temperature sopra la media del periodo fino a sabato e poi in calo domenica. Le previsioni per il ponte di inizio novembre a cura di Sergio Nortio dell'ARPA Friuli Venezia Giulia. Condizioni di tempo molto stabile sulla nostra regione, l'anticiclone che si è impadronito un po' del Mediterraneo ci porta tempo quasi da fine estate, quindi cielo in prevalenza sereno nei prossimi giorni, avremo un po' più di umidità probabilmente nella serata di domani, dopo una giornata ancora molto mite con temperature intorno ai 22-23 gradi sulla pianura, quindi valori appunto elevati per il periodo. Più umidità in serata con possibili foschie, forse anche qualche banco di nebbia sulla bassa pianura. Resta bel tempo per la giornata di sabato, però probabilmente dal pomeriggio inizierà a soffiare bora moderata sulla costa e sulle zone orientali. Bora che sentiremo un po' più sostenuta domenica, con raffiche probabilmente a Trieste intorno ai 70 km orari e un deciso calo delle temperature. Quindi domenica ci attendiamo aria più fresca, quindi le massime saranno in calo intorno ai 15 gradi circa, valori quindi ben più bassi di quelli attuali. Resta sempre bel tempo, ancora un po' di borino fino a lunedì mattina e ancora stabilità in prospettiva per gran parte della prossima settimana. Siamo alla pagina degli spettacoli, l'evento della serata, il concerto di Pat Metheny a Udine, il chitarrista e compositore statunitense, 70 anni e 50 album, arriva per l'apertura autunnale di Note Nuove, la rassegna di Euritmica, che proseguirà fino a febbraio con altri grandi nomi del jazz e non solo. Metheny proporrà i brani del suo ultimo disco, Moondial, ma anche una scelta di capisaldi di una carriera, quelli compatibili con un concerto acustico di chitarra solista. L'appuntamento è al Teatro Nuovo. Sempre a Udine, al Palamostre va in scena una versione straordinaria dell'Assemblea in occasione dei 50 anni dal referendum sul divorzio. Uno spettacolo di teatro partecipato, ideato e diretto da Rita Maffei nel 2018, che in questi giorni per la stagione di Teatro Contatto si allarga anche ad altre tematiche. A Trieste prosegue il Science Plus Fiction Festival, le meraviglie del possibile, non solo in versione cinematografica, ma anche con i corollari della divulgazione, con gli approfondimenti delle discipline scientifiche. Le proiezioni sono al Politeama Rossetti e al Teatro Miela. Anche domani una giornata piena di anteprime nazionali e grandi classici. Sullo schermo arriveranno le versioni restaurate di Terminator e La storia infinita che uscivano 40 anni fa. Intanto al Teatro Verdi di Trieste questa mattina è stata presentata alla stampa La Traviata, che andrà in scena dall'8 al 17 novembre. Un caposaldo della lirica per l'apertura di stagione di una delle principali istituzioni musicali italiane. Ha più di 200 anni di storia e ogni volta che inizia una nuova stagione è sempre la stessa magia. La prossima settimana comincia con La Traviata di Verdi, la stagione lirica e di balletto del Teatro Verdi di Trieste, un'istituzione che cerca di rinnovarsi e che riesce a mantenere numeri importanti in crescita nel post pandemia. Il sovrintendente Giuliano Polo. L'anno scorso c'è stato un consolidamento delle presenze, abbiamo avuto 56.000 presenze e abbiamo fatto 150 aperture di sipario, diciamo 150 spettacoli, che sono tantissimi e sono più o meno uno spettacolo ogni due giorni. Abbiamo incrementato il nostro pubblico e quest'anno la tendenza è buonissima. Abbiamo aggiunto nel 2024 un'attività estiva che mancava da moltissimi anni a Trieste. Abbiamo cercato di valorizzare un sito iconico come il Castello di San Giusto, dove abbiamo eseguito tre recite di Turandot e altri concerti sinfonici, quindi diciamo le presenze del pubblico ci danno molta soddisfazione. Naturalmente sono cambiate molto le abitudini. La stagione, come detto, comincerà con La Traviata, un'opera popolare ma non per questo semplice. Enrico Calesso, direttore d'orchestra. Un'opera di estrema difficoltà interpretativa, è un'opera naturalmente nota al grande pubblico, nota anche per grandissimi interpreti che l'hanno portata sulle scene. Ma si tratta appunto di un'opera in cui Giuseppe Verdi porta l'introspezione psicologica dei personaggi a livelli estremi. Per Verdi non si può parlare di un contrasto tra pop e colto. Verdi ha questa grandissima capacità di parlare non solo al pubblico di allora, col successo di un grande compositore di musical, paragonabile a quello odierno del musical, ma anche appunto di parlare a noi, tuttora, è di un'attualità sconvolgente. Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Siamo allo sport calcio, l'Udinese in altalena dopo il successo limpido contro il Cagliari, una sconcertante battuta d'arresto a Venezia. La squadra di Rugnaic in vantaggio 2-0 è stata rimontata e sconfitta dai padroni di casa. L'Udinese si fa rimontare due gol di vantaggio e perde a Venezia per 3-2. Prima rete bianconera dopo 20 minuti, percussione centrale di Pagero, rimpallo al limite dell'area, arriva Lovric, destro secco a rasoterra nell'angolino, Stankovic sorpreso che non ci arriva. Sei minuti dopo l'Udinese raddoppia, recupero palla a metà campo di Biol, la palla arriva a Bravo, due tocchi destro a rasoterra e anche questa volta Stankovic è battuto. Accorcia il Venezia allo scadere del tempo, poi Ampalo va via Giannetti che tenta un intervento da dietro in piena area ma prende le gambe dell'avversario, rigore e giallo con lo stesso attaccante finlandese che va sul dischetto, tiro imparabile e 2-1. Al decimo della ripresa, episodio chiave. Oristanio va via a Touré che lo ferma come può. Per l'arbitro è chiara occasione da gol, quindi rosso per il difensore bianconero. Decisione che lascia perplesso a dir poco il supervisore dell'area tecnica Nani. Qualcuno mi risponda perché è stato espulso Touré quando c'era Camara in chiusura, e quell'episodio ci ha cambiato la partita. Rosso pesante e punizione pesantissima. Sulla palla va Nicolussi Caviglia, la sua è una rasoiata che si infila all'angolo basso alla sinistra di Okoje. 2-2. La beffa arriva a 4 minuti dalla fine. Cabasella interviene alla disperata su Duncan, la palla finisce sul braccio e il Venezia, previa verifica VAR e ancora con la perplessità dei bianconeri, va di nuovo sul dischetto. Poi Ampallo dimostra di non sentire la pressione, sul suo destro secco Okoje non si muove nemmeno. La beffa è servita, il Venezia vince 3-2. Close to an amazing away game. Primo tempo quasi sorprendente, commenta Rugnaic in sala stampa, e anche per questo la delusione è più grande. Però, aggiunge il tecnico bianconero, è un'esperienza dalla quale dobbiamo imparare. Andrea Vardaniga, TGR Friuli Venezia Giulia. In Serie A oggi si completa il quadro della giornata infrasettimanale con Genoa-Fiorentina, Roma-Torino e Como-Lazio. Viola e biancocelesti hanno l'opportunità di staccare l'Udinese che nel prossimo turno sabato affronterà al Friuli la Juventus. In testa alla classifica della massima serie c'è il Napoli con 25 punti e 4 lunghezze di vantaggio sull'Inter, 6 sull'Atalanta e 7 sulla stessa Juve. In Serie C cerca di guardare avanti la Triestina che domenica giocherà sul campo della Pro Patria. Gli alabardati che ieri hanno acciuffato il pareggio in pieno recupero con l'Albino Leffe evitando la nona sconfitta stagionale rincorrono una complicata salvezza, sono ultimi con 5 lunghezze da recuperare sulla zona playout. C'è, prima di chiudere, un aggiornamento sul processo di Udine per la morte di Penelope Cossaro travolta da un'acquasantiera nella chiesa di Santa Chiara in gestione dell'educandato statale Collegio Uccellis il 21 novembre del 2019. Si è conclusa la requisitoria della PM Anna Lucia Terzariol. Le richieste di pena per i due imputati sono di 2 anni ciascuno. I due imputati sono padre Ioan Margine Ancocis, il prelato che nel pomeriggio di quel giorno stava tenendo una lezione di catechismo ad alcuni bambini della scuola primaria, e la dirigente scolastica dell'Uccellis, Anna Maria Zilli. La sentenza è prevista per oggi. È tutto per questa edizione che è stata redatta e condotta da Lara Zani e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Roberto Cavallari e Bruno Montevecchia, collaborato in redazione Cristina Polselli. 12:52, prossima edizione alle 15. A tutti voi grazie per averci seguito e buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.